Adesso parliamo di un libro che ho letteralmente divorato. Prego, dai. Si chiama Lombardi e il fenicottero, esce per le edizioni Asino d'Oro. Abbiamo l'autore al telefono, Carlo Patrignani. Ciao Carlo. Ciao Carlo. Saluto a tutti voi. Buon pomeriggio e benvenuto al Canto della Balena. Allora Carlo, come nasce l'idea di questo libro dedicato appunto a una figura come quella di Lombardi? Il libro nasce da una frase che comparve il 28 luglio del 2005 sul Corriere della Sera, una lunga intervista allo psichiatra Massimo Fagioli dopo qualche giorno dalla presentazione del programma delle primarie per l'Unione di Fausto Bertinotti alla libreria Amore Psiche. Una intervista molto articolata, complessa, in cui c'era una frase alla domanda del giornalista lei è comunista? La risposta secca fu mai stato, all'epoca ero con il socialismo di sinistra di Lombardi, perché, e Fagioli me lo dirà dopo qualche tempo, più radicale dei comunisti. Ecco, lì nasce qualcosa dentro di me che mi riporta immediatamente a rivedere e ricordare la figura di questo grande uomo politico, forse uno dei più geniali, dei più onesti sicuramente, della Repubblica Italiana, perché io dal 72 all'84 ho fatto parte della sinistra lombardiana di Roma e quindi ho avuto modo più di una volta di parlare direttamente, di scambiare idee, opinioni con lui e dopo la morte avvenuta il 18 settembre del 1984 lui fu cremato senza riti religiosi, come dire, un po' mi sono disamorato della politica, mi sono staccato dalla politica, ho fatto il giornalista e poi ecco in quella giornata fosa di luglio del 2005 riemerge questa figura, questi ricordi, e da lì è partita una lunga ricerca durata più di qualche anno su Lombardi e su quello che lui ha fatto dalla Resistenza in poi, quindi ricerche d'archivio, ricerche negli istituti storici, e in tutto questo la scoperta veramente per me sensazionale della donna che gli fu accanto per 52 anni è in aviatto, appunto il fenicottero, che fece nella sua gioventù la staffetta partigiana organizzando la Resistenza sia nell'Alt'Italia, frequentava molto le famose mondine del Vercellese, e soprattutto anche all'estero, dove incontrò Sidone, Tasca, Parigi, e proprio a Parigi nel 31 ebbe un durissimo scontro con Palmiro Togliatti che voleva imporle di andare per 2 anni a Mosca all'istituto Marx Engels, dove si diventava perfetti comunisti. Per quei tempi dire no a Togliatti equivaleva a qualcosa di eccezionale, di straordinario, si rischiava appunto non solo l'epurazione dal Partito Comunista, ma qualche cosa di più. Certo. Eppure questa donna non ebbe nessun timore a rifiutare l'offerta di Togliatti, anzi l'ordine di Togliatti, ritornò in Italia e ci fu un incontro occasionale nello studio dell'avvocato Aris a Milano, l'avvocato che l'aiutò ad uscire di prigione, perché lei fu 6 mesi, 8 mesi in prigione per la sua attività di antifascista, e in questo studio incontra l'ingegnere non comunista ma amico degli antifascisti, e quindi ricomincia questa lunga storia d'amore tra Riccardo e Ena. Ma insomma, al di là appunto di un saggio sull'importanza anche odierna dell'esperienza lombardiana, mi sembra di capire anche un romanzo affascinante, in un certo senso anche avvincente. Direi proprio di sì, perché tra i due identità indubbiamente rilevanti, sia di Lombardi, che spiccò poi subito dopo la Repubblica il volo verso la politica, diventando praticamente il punto di riferimento di intere generazioni di uomini di sinistra. Inventò la programmazione economica, inventò le riforme di struttura, inventò lui, che non era marxista, questo qui è un fatto importantissimo, non è mai stato marxista, eppure è stato il più bravo e corretto interprete del marxismo, soprattutto su due o tre concetti fondamentali. Uno era l'alienazione sia del lavoro e sia l'alienazione religiosa, dello sfruttamento, quindi della manodopera, e l'attenzione che lui mise in maniera certosina, in maniera molto molto approfondita, sull'operaio come fruitore da una parte di un salario equo, ma dall'altra come persona che ha tutti i diritti di crescere culturalmente, e quindi di poter di volta in volta non solo poter cambiare mestiere e fare altro, ma lui diceva conoscere, apprezzare i grandi classici, da Omero a Dante a Shakespeare, e ammirare per esempio Picasso. Ecco, quindi lui fu un politico che si pose il problema dell'essere umano nella sua interezza. Benissimo. sia dal punto di vista, diciamo così, dei fruitori di beni materiali, ma soprattutto come persona, essere umano che ha bisogno di ben altro per realizzare la propria identità umana e quindi poi sociale e professionale. Carlo, dall'altro, sì. Ecco, dall'altro, e concludo, la grossa identità di questa donna, che non si perse, pur innamoratissima del suo uomo, non si perse mai dietro di lui, ma ovunque andava non si presentava per esempio come la moglie di, ma diceva semplicemente: io sono Ena Viatto. Carlo, noi ti ringraziamo, ricordiamo ai nostri ascoltatori che è uscito in libreria, edito da L'Asino d'Oro, Lombardi e il Fenicottero, l'autore si chiama Carlo Patrignani ed è stato con noi al Canto della Balena, lo ringraziamo, grazie Carlo. Grazie a voi e buonasera. A presto. A presto.